Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, chiaramente tutto l'aspetto economico del vertice o dell'incontro Putin-Renzi. Già ieri abbiamo avuto modo di parlare con tre delle categorie più colpite, lo ricordo, chi si è perso la puntata, dall'embargo, dal controembargo russo, e mi riferisco al settore alimentare italiano, al settore calzaturiero e al settore del tessile, moda, abbigliamento. Oggi chiaramente, come i nostri GR24 vi hanno già ricordato, c'è tutto il fronte diplomatico, per cui il Presidente del Consiglio Renzi ha detto l'importante è rispetto per tutte e due le parti degli accordi. Adesso Renzi poi è intervenuto proprio all'Assemblea di Federalimentare. Detto questo, il tema è anche economico, il che non vuol dire che sia solo o prevalentemente economico. Nessuno vuole superare a destra il tema di carattere diplomatico, politico e dei diritti del popolo ucraino. Non si può però far finta di niente e non ricordare che rispetto a altri paesi europei che appoggiano la linea statunitense, l'Italia è il paese che economicamente sta pagando il danno, non so se maggiore, ma uno dei danni maggiori, proprio perché eravamo il terzo paese per importanza nell'interscambio commerciale della Russia. Parleremo comunque di scenari economici, appunto, con l'intervista anche all'economista Michael Landesman del Vienna Institute for International Economic Studies. Avremo un approfondimento sulle liberalizzazioni. Il pretesto non è tanto la vicenda Uber Pop. Oggi il tribunale ha confermato che deve chiudere entro stasera l'applicazione Uber Pop, quella più aggressiva nell'offerta, diciamo, sostitutiva di concorrenza sleale, dice il tribunale, non solo i tassisti, ma il tribunale stesso, di concorrenza sleale nei confronti del mondo dei taxi. Ne parleremo anche perché è uscito un rapporto della Doxa sul grado di liberalizzazione in Italia, non solo nel trasporto, anche nell'energia, nelle poste, nelle telecomunicazioni, rispetto ad altri paesi, e l'atteggiamento degli italiani nei confronti di queste liberalizzazioni. Ancora la Grecia, daremo un aggiornamento, fa un po' sorridere leggere che Bruxelles dice la palla adesso nel campo di Atene, perché questa è una partita di ping pong, la pallina se vogliamo, perché ogni giorno la Grecia dice una cosa e la palla la butta nel campo dell'Europa, l'Europa la ributta nel campo di Atene, insomma. Non vogliamo dire ping pong, vogliamo dire tennis, questo è il risultato. Però bisogna dare seguito al dialogo avuto con Juncker, ha commentato, adesso vi arriveremo, il portavoce della Commissione Europea. Ancora per quello che riguarda la borsa, oggi più che buona la giornata, più 2,20% Milano, che è la migliore tra le borse europee, più 1,20 Parigi, più 1,90 Francoforte, Londra più 0,85, il Dow Jones in America più 1,24%. Che cosa è successo? Beh, in realtà oggi c'è un rimbalzo generalizzato. La moda traina Milano, la moda al lusso, Yux più 5,44%, Moncler più 4,30%, Ferragamo più 3,5% e ancora Luxottica più 2,40%. Poi un leggero rimbalzo del prezzo del petrolio trascina anche Eni, più 3,55%. Telecom, parleremo di tutta la partita del cablaggio, della digitalizzazione del paese, se tutto confermato il prossimo 16 giugno con il presidente di Telecom Italia, Giuseppe Recchi. Il mercato ragiona sul fatto che se l'Enel si prenderà carico del cablaggio, o meglio di far passare i cavi per arrivare alla banda ultra larga, questo sarà un costo minore per Telecom. In realtà la partita è un po' più complessa, perché c'è un obbligo di legge a questo punto per tutte, Enel inclusa, per chi deve fare dei lavori di manutenzione o di creazione di una nuova canaletta, non so come chiamarlo, di lasciare lo spazio, lo dico in maniera un po' così, un po' prosaica, ma tant'è, di lasciare lo spazio per la fibra ottica. Il problema poi che ha Telecom è capire bene, ma dove mettiamo poi il contatore? Lo mettiamo nella centralina dell'Enel, e poi spesso l'Enel arriva in molti edifici, i contatori del gas e dell'elettricità e anche del gas, delle volte sono, sembrano delle banalità, ma non sono così, sono al piano terra o sono negli scantinati, per poi cablare le singole case devi bucare comunque le pareti. Quindi il tema è un po' più complicato tecnicamente di come non sembri dire, vabbè, l'Enel useremo tutte i collegamenti, il cablaggio verrà fatto grazie all'Enel, grazie alle sue canalette. Però il mercato ragiona su anche su questo, le banche oggi tutte in recupero, devo dire che di negativo c'è solo Buzzi Unice, meno 0,60%, bene. Al di là del fronte bancario, anche Mediaset più 2,14%, dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi, a giugno arriverà il segno più sulla raccolta, prevedono di chiudere il secondo trimestre meglio del primo e verrà rafforzata anche con un nuovo decoder l'offerta Pay sul satellite, un nuovo decoder per banda larga e satellite. Ne parleremo nel corso dei mercati finanziari. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Partiamo dal petrolio, visto che di petrolio stavamo parlando, sul rimbalzo, in occasione del rimbalzo dell'Eni, è salito del 2%. In realtà la cosa importante è che è sopra la soglia dei 60 dollari al barile, a 61 dollari al barile. Ripeto, è sempre un livello molto buono, se ci ricordiamo i 100 dollari degli ultimi anni, 90, 95, 100, 100 dollari. Per quello che riguarda scusatemi, l'economia europea, oggi... per la prima volta i rendimenti dei titoli di Stato tedeschi a 10 anni, i Bund a 10 anni, hanno superato la soglia psicologica dell'1%, non capitava da 9 mesi, dal settembre del 2014. Buoni dati che arrivano dalla Turchia, più 2,35% il PIL nei primi tre mesi, superiore alle previsioni. La Turchia ha un altro problema di carattere politico, come il mercato ha segnalato dopo il calo e sconfitta di Erdogan alle elezioni. Mi scrive un ascoltatore: per forza il lusso va bene oggi, sono arrivati i russi a Milano. Sì, guardi che apprezzo la battuta, ma il tema è molto delicato, perché come ci spiegavano ieri tutti i presidenti delle associazioni di categoria, il mercato russo, per la qualità che ha, non è sostituibile con altri mercati in maniera molto semplice. Tra l'altro, ricordo e ripeto ancora quanto ci ha dichiarato il presidente di Federalimentare, era uno dei pochi mercati in cui gli acquirenti volevano il vero, in questo caso, cibo o prodotto alimentare italiano, non si accontentavano dell'Italian sounding, di quello che imita il cibo italiano, con la conseguenza però che l'embargo, siccome giustamente tu non puoi chiudere le migliaia di ristoranti italiani aperti in Russia o diciamo i supermercati che vendono cibo italiano, che si stanno approvvigionando da altri mercati, turchi piuttosto che cinesi, piuttosto che con prodotti simili a quelli italiani, che rischiano di fare un danno, perché una volta che entrano poi è più difficile cacciarli da un mercato, ripeto, per le caratteristiche del consumatore russo, chiaramente di fascia alta, voleva la qualità originale, non si accontentava delle imitazioni. Dacci oggi, un po' blasfemo forse, dacci oggi la nostra Grecia quotidiana, ma insomma qui ogni giorno ce l'abbiamo. Allora, possibile una firma in occasione dell'incontro tra Alexis Tsipras e il presidente russo Vladimir Putin il 18 e 20 giugno, una firma per il gasdotto Turkstream. La Russia, è inutile girarci attorno, si sta ponendo come partner, non dico sostitutivo, ma quasi, dell'Europa nel caso la Grecia dovesse uscire, o comunque sta sfruttando questa difficoltà a essere buoni nei rapporti tra Grecia e il resto d'Europa per inserirsi come partner privilegiato con una corsia preferenziale. L'Unione Europea nel frattempo ha bocciato le ultime proposte di Atene, non riflettono gli scambi avuti con Tsipras nei giorni scorsi, lo ha detto il portavoce appunto del Presidente della Commissione Europea Juncker. La palla ora è nel campo di Atene. On Greece, technical work continues. Sulla Grecia il lavoro continua per conciliare le diverse posizioni e per arrivare a un accordo unanime che soddisfi tutti i 19 membri dell'Eurozona. Perché questo avvenga, la Commissione ritiene che la palla ora sia chiaramente nelle mani del governo greco, che dovrebbe dar seguito agli impegni presi nell'incontro con il presidente Juncker lo scorso mercoledì sera. At the meeting with President Juncker last Wednesday night. Ancora, il commissario europeo agli affari economici e monetari, Pierre Moscovici, ha detto che, anzi, il governo greco non ha mai ricevuto riscontri da parte del commissario europeo Pierre Moscovici sulla proposta presentata da Atene. Questa è la risposta del governo greco, per cui dice, attenzione, è Moscovici che non ci ha mai risposto. È un po' intricata oggi perché c'è una marea di dichiarazioni. Angela Merkel, entrando al vertice dell'Unione Europea con l'America Latina, ha detto se Tsipras vuole parlare lo faremo. Il messaggio sarà questo, i negoziati devono continuare con le tre istituzioni, l'obiettivo è tenere la Grecia nella zona euro. Se c'è la volontà la strada si trova, ma il tempo conta. E di nuovo sono emerse degli screzi o delle crepature tra la posizione di Angela Merkel e del suo ministro delle finanze Schäuble. Perché? Perché il portavoce di Schäuble ha detto un taglio del debito non è il tema, ma inutile che ci giriamo attorno, tanto non ne esci, che poi non lo chiamiamo taglio del debito, che lo chiamiamo allungamento del debito, è la stessa cosa, perché se io ti devo dare 1000 euro entro questo mese e invece te li do fra un anno, tu puoi dire che non hai tagliato il debito, ma di fatto l'hai fatto perché hai diluito quello che devo darti nell'arco di un anno, di fatto è la stessa cosa, meglio si salva di più la faccia, benissimo. Poi c'è la Bild che scrive, il tabloid, penso che sia il più importante tabloid in Germania, però non vorrei far torto a nessuno, scrive sostanzialmente che Angela Merkel è sempre più sola in Europa, praticamente il numero dei deputati che non sarebbero più disposti a seguire la linea della grande coalizione della Merkel non è solo, c'è un numero di deputati in Germania che non vogliono più seguire Angela Merkel in questa linea della fermezza, ma si starebbe isolando anche a livello europeo. E lo Spiegel, invece, lo Spiegel dice attenzione, la cancelliera Angela Merkel rischia una debacle in Parlamento. Allora, una cosa la voglio far notare, poi passiamo al primo tema e mi riferisco anche alla vicenda Uber, abbiamo anche altre notizie, però forse un ricordare da un lato che cosa ha portato l'austerità in Grecia e dall'altro invece che cosa i greci non hanno fatto, perché qui si tende sempre a dare o ragione a Tsipras, o ragione alla Merkel, o a dire che i greci campano con i nostri soldi, che in parte è vero, o dire, come noi sosteniamo da tempo, che realisticamente l'intera gestione della vicenda greca è stata un caporetto dell'Unione Europea e della Germania che l'ha guidata, perché dopo 5 anni siamo ancora al punto di partenza, forse bisognava prendere atto in maniera realistica, meno ideologica, che la Grecia andava salvata, poi commissariata e fatta ripagare col tempo, commissariata nel senso di controllate sui conti, fatta ripagare col tempo, era inutile fare la faccia feroce quando tanto non puoi farlo nel caso greco. Detto questo, ci sono elementi, quando si dice i greci fanno i furbi, è in parte vero e lo fa anche lo stesso Tsipras, e dall'altra parte quando si dice però la Grecia è in ginocchio, è vero anch'esso. Are you with me? Are you with me? sempre per la forza dei fatti che contraddistingue questo gruppo e non solo questa radio. Allora, dal 2010 la Grecia ha effettuato tagli per 28 miliardi di euro sul suo PIL. Siccome il PIL greco ne vale 180 di miliardi, è come se l'Italia avesse tagliato le spese della pubblica amministrazione per 234 miliardi in proporzione. Ripeto, non dite magari, perché quello vorrebbe dire fare macelleria sociale, nel senso che la spesa per la pubblica amministrazione da noi su 800 miliardi, lo ripeto ogni volta, sono 136-140 quelli di beni intermedi. Allora vorrebbe dire che noi non avremmo più comprato una siringa, una sacca di plasma, un lettino d'ospedale, una macchina della polizia, una varella, una lettiga, nulla, una pistola, un uniforme, nulla. Più avremmo tagliato anche, se avessimo dovuto fare come la Grecia, di altri sostanzialmente 100 miliardi gli stipendi, le pensioni e quant'altro. Ma vi immaginate cosa sarebbe successo, visto che parliamo di un pubblico impiego che ha tante colpe, anche a partire dal livello dirigenziale, ma sicuramente negli operatori sanitari, delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco, non ha stipendi elevati, ecco. Questo è lo sforzo che ha fatto la Grecia. Nei primi quattro mesi del 2015 i 140 principali ospedali greci, qui parliamo della sanità, hanno ricevuto 43 milioni di euro come fondi statali contro i 650 milioni dell'anno prima. Questo l'ha spiegato anche ai tedeschi, nel senso che ci sono stati sicuramente degli sprechi, come anche nella nostra sanità, ma portare a meno di un decimo, a quasi un ventesimo, i trasferimenti, voi immaginate il policlinico, l'ospedale della vostra città che riceve un quindicesimo di fondi rispetto all'anno prima, quindi compra un quindicesimo di siringhe in meno, un quindicesimo, ma stiamo pazziando, come dicono a Napoli. E sulla Germania, ringrazio l'ascoltatore Diego, io ho detto una cosa diversa: la Merkel non solo è isolata, o meglio la Germania è isolata a livello internazionale, l'America dice che così non va bene, non va bene la Grecia, ma non va bene neanche l'atteggiamento della Germania, Francia, Italia hanno un atteggiamento molto critico, ma è isolata all'interno del Bundestag per il motivo opposto, perché una parte della grande coalizione non vuole seguire la Merkel in questo tentativo di dialogo, chiamiamolo così, nei confronti della Grecia. Questo dimostra che Angela Merkel ha molte responsabilità, ma delle volte è quasi più morbida del suo Parlamento e della sua coalizione. Comunque, faccio un esempio: in Grecia lo stipendio del responsabile del principale ospedale di Atene si è ridotto dai 7.400 euro al dirigente massimo, il direttore dell'ospedale, 7.400 euro al mese, che possono essere stati tanti nel 2010, a 1.200, che oggettivamente, siccome anche la Grecia ha l'euro e importa la stragrande maggioranza dei beni che consuma, non è come l'Italia, ne importa molti di più, immaginate cosa vuol dire se questo è lo stipendio del primo dirigente, direttore generale del più grosso ospedale ellenico. E questo è dove ha ragione Tsipras. Dove ha torto Tsipras invece è nell'accusa che gli viene fatta da più parti di mantenere alcuni privilegi non solo simbolici ma comunque ingiustificati. La legge costituzionale del 1967 che garantisce agli armatori l'esenzione fiscale sui profitti generati all'estero, un generoso contratto per i dipendenti dell'Enel greco, si chiama DEPA, la riassunzione di centinaia di addetti alle pulizie nel Ministero delle Finanze, prima c'era una cooperativa esterna e ne bastavano 30, rimane la possibilità per i dipendenti pubblici di andare in pensione prima dei 55 anni, questo è inaccettabile, veramente. Quindi Tsipras, come dice, non tocchiamo le pensioni. Ha ragione se vai a toccare le pensioni sulla soglia della povertà, ma ha torto quando permette ai dipendenti pubblici di andare in pensione prima dei 55 anni. Le pensioni costano 1,5 miliardi. Queste pensioni costano in Grecia 1,5 miliardi all'anno. In effetti uno statale tedesco, un dipendente statale tedesco va in pensione con il 40% dell'ultimo stipendio, un dipendente statale greco va ancora in pensione con l'85% dell'ultimo stipendio, ci va 6 anni prima e non è particolarmente un sistema efficiente nel raccogliere contributi. Sull'evasione fiscale ha fatto pochissimo il governo Tsipras, al di là delle dichiarazioni di intenti, cioè sono sacche di evasione che battono anche l'Italia. Soprattutto nelle zone più turistiche, le isole e quant'altro.

Sì, dicevo, a partire da Uber Pop, nel senso che il Tribunale di Milano appunto ha respinto l'istanza di sospensione del blocco dell'app Uber Pop, cioè ha confermato il blocco dell'application Uber Pop, e quindi da oggi, entro oggi, la società deve disattivare il servizio. Ricorderete, ce ne siamo occupati, Uber Pop era la parte più aggressiva dell'offerta Uber, l'altra resta. Onestamente abbiamo avanzato anche noi dei dubbi, non possiamo essere accusati, penso, di essere contro le liberalizzazioni, ma sulla parte Uber Pop era veramente un po' troppo, mentre sulla Uber normale ci siamo permessi di dire attenzione al mondo dei tassisti, che è un pubblico che ascolta molto Radio 24, attenzione, le innovazioni come quella di Uber, se all'interno di un percorso legale, infatti il tribunale ha deciso che Uber Pop era in violazione, si trattava di concorrenza sleale nei confronti dei taxi, ma Uber, quell'altra, quella la prima, quella che già creò scioperi del mondo dei tassisti, evidentemente segnala anche il bisogno di una domanda di maggiore efficienza. E abbiamo fatto, non so quanti sms ho ricevuto di polemica, non è soltanto solo sui tassisti milanesi. Faccio notare per esperienza diretta che le carte di credito da Roma in giù iniziano a essere un problema quando chiedi di pagare un taxi con la carta di credito, e anche le app andrebbero sfruttate meglio. Detto ciò, poi la situazione è molto diversa. Perché parliamo di Uber? Non tanto di Uber in senso stretto, quanto del tema delle liberalizzazioni, perché oggi è stato presentato un sondaggio della Doxa, realizzato in collaborazione con Comin & Partners, che va a fotografare la situazione italiana sulle liberalizzazioni e anche le attese degli italiani e gli atteggiamenti degli italiani sulle liberalizzazioni stesse. Allora, l'Italia non esce male, promossa con riserva sulle liberalizzazioni. Parliamo dei mercati a rete, quelli dove c'è una rete fisica importante, le telecomunicazioni, l'energia, il gas, le poste, i trasporti, ma anche su quelli finanziari, banche e assicurazioni. Il grado di apertura è in media, delle volte anche superiore alla media europea. Se si considerano però solo i 5 big, siamo mediamente più in basso. Nel caso specifico emerge come essere poco libera alla concorrenza, i maggiori limiti alla libera concorrenza arrivino nel servizio postale, anche se dal 2009 al 2011 è quello che ha aperto maggiormente al processo di liberalizzazione. Siamo in collegamento con il fondatore della Comin & Partners, Gianluca Comin. Buonasera innanzitutto. Buonasera a tutti. Tra l'altro voi avete studiato appunto con la Doxa anche quello che avviene negli altri paesi, poi arriviamo alle risposte degli italiani. Come ci posizioniamo con i 5 principali paesi europei presi in esame, cioè oltre all'Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Spagna? Ma tranne la Gran Bretagna, che è molto più avanti di noi, l'Italia è messa abbastanza bene. È proprio questa la parte positiva del processo di liberalizzazione. È stato fatto molto nel campo delle telecomunicazioni, dell'energia, si è avviato il percorso dei trasporti, anche se molto deve essere ancora fatto, e le poste stanno per avviarsi, forse anche la privatizzazione darà un nuovo impulso anche al mercato. Purtroppo il percorso è un percorso a singhiozzi, è stato fatto molto nei decenni precedenti, poi si è rallentato negli ultimi anni e oggi, con la legge che è stata presentata in Parlamento, c'è un nuovo impulso. Gli italiani, tutto questo andamento, diciamo così, non fluido delle liberalizzazioni, non lo vivono bene, lo vivono con una percezione invece di rallentamento e di poca apertura. Allora, veniamo agli italiani, perché qui va detta una cosa. Nel passato, soprattutto quando si guardava alle scelte nei servizi bancari e finanziari, noi siamo un paese ben strano, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, un po' dissociati, perché da un lato siamo molto a favore delle liberalizzazioni, critichiamo le banche, mi riferisco a quello perché lì avevamo dei dati, i servizi bancari e quant'altro. Poi quando andavi a vedere quanti italiani avessero cambiato effettivamente banca, fermo restando che adesso anche grazie alle leggi il servizio è gratuito, cioè non ci sono più quegli ostacoli che le banche oggettivamente frapponevano anni fa, con costi, lentezze e quant'altro. Se tu poi vai a vedere quanti italiani cambiano banca, ti rendi conto che c'è una resistenza reale al cambiamento al di là delle dichiarazioni di intenti. Quindi diciamo a parole sì, bisogna avere maggiore concorrenza, le banche così non vanno bene, eh? Poi ognuno, adesso la forzo come analisi, si tiene o tende a tenersi la sua banca. Voi l'avete rilevato anche negli altri servizi? Sì, le banche rimangono il fanalino di coda ancora di questa ricerca da parte degli italiani, però è un tema abbastanza diffuso, anche nel settore elettrico, che quello che ormai ha un decennio di liberalizzazione, la propensione a cambiare il gestore è molto bassa, non sopra il 10-12%. È vero che la conseguenza di questo è che la gente torna verso l'incumbent, non ha... L'incumbent era quando... l'ex monopolista, diciamo, per fare l'ex monopolista. Perché succede questo? Perché probabilmente c'è poca trasparenza, le bollette di tutte, telefoniche, elettriche, sono complicate, la gente non percepisce il vero valore della liberalizzazione. Percepisce che c'è, perché ci sono più operatori, la pubblicità di tanti diversi soggetti, imprese, e mostra che c'è competizione. Però poi quando uno dice, beh, perché devo cambiare? E uno cambia perché o c'è un servizio migliore o c'è un costo inferiore. Questo è difficilmente percepibile. In particolare nel settore elettrico, dove la differenza di prezzo, diciamo, tra un operatore e l'altro è veramente bassa. E dov'è che invece viene più percepito il vantaggio delle liberalizzazioni, quindi la possibilità di cambiare? Ad oggi nella telefonia anche per la maturità che ha questo settore, il consumatore è più preparato a cambiare, le tariffe, anche quelle, soprattutto quelle del mobile, sono facilmente identificabili e quindi il consumatore ha più, come dire, facilità andare in un negozio e dire cambio il mio gestore, cambio la mia tariffa e provo nuove esperienze. Ci si augura che anche altri settori possano arrivare a quel livello, in particolare i trasporti, le banche, dove addirittura per gli italiani da questa ricerca risulta che sono pochi concorrenti, non si capisce una distintività tra i vari marchi. Di questo parliamo anche dopo il traffico, perché devo lanciare informazioni sul traffico, perché poi vorrei capire anche altre cose che sono uscite dalla vostra indagine con la Doxa. 349-238-6666 per gli sms e la pagina di Radio 24 di Focus Economia sul sito di Radio 24. Focus Economia. Allora, di nuovo sulla liberalizzazione, visto che abbiamo iniziato con Uber Pop, mi scrive un tassista, più di un tassista, guardi che il problema non era la liberalizzazione ma concorrenza sleale, lo abbiamo detto, il tribunale ha confermato il blocco di Uber Pop per concorrenza sleale, e aggiunge non pagano nessuna tassa, non hanno l'obbligo del colore, non hanno la revisione, lì si andava a un mercato a mio avviso più che liberalizzato selvaggio, cioè qualunque privato cittadino poteva mettersi a disposizione per dare un servizio di passaggio. Ora, io da utente vorrei un minimo di garanzie, di standard, non che il primo, e anche di sicurezza. Poi se volete un giorno facciamo la puntata su quello che succede a Londra con le macchine private. Altra cosa è il servizio Uber, l'app che fa concorrenza ai tassisti, non Uber Pop, e lì non c'è niente da dire perché Uber continua a operare, e bisogna capire che cosa possano fare i tassisti per rispondere in maniera propositiva a questo. Però anche lì siamo messi male dal rapporto Doxa. Solo il 41% sul tema trasporti complessivi, non solo i taxi, dà una valutazione positiva sulle nuove opportunità arrivate con le liberalizzazioni. I trasporti, sai, quello che si vede è proprio l'alta velocità, lì la concorrenza c'è, è avviata, ma c'è tutto quello che viene sotto, dal trasporto locale al trasporto su ruota, dove la concorrenza è molto bassa e il cittadino ha poca scelta. C'è da dire su Uber, ed è stato un tema di questa mattina, che al di là delle scelte e delle regole che devono essere fatte, c'è una nuova economia che sta avanzando, è l'economia della condivisione. La gente vuole, attraverso delle app, attraverso dei sistemi tecnologici, fare da sé, e lo fa da sé per prenotarsi una stanza, no, privata invece che l'albergo, certo. Lo fa per prenotare un volo aereo. Beh, il Car2Go è un tipico esempio, funziona tutto con un'app, e scegli la macchina più vicina, la prenoti. Si sta passando certo, da un'economia del possesso a un'economia dell'uso. Allora, la regolazione, le leggi stanno seguendo questo trend? Per ora lo stanno un po' frenando, da un lato giustamente perché bisogna mettere delle regole perché tutti abbiano le stesse condizioni, dall'altro però non puoi fermare, come se le poste quando venne inventata l'email avessero fatto causa, che ne so, alla Microsoft per evitare che le mail sostituissero certo. la lettera. Cioè infatti lì, chiudo da dove siamo partiti nel ringraziare Gianluca Comin che ci ha presentato l'indagine realizzata con la Doxa. Il tema di Uber, quindi lo dico ai tassisti che stanno scrivendo, è molto semplice: se c'è della concorrenza sleale va bloccata e basta, perché qui il campo da gioco deve essere con delle regole precise. Il tribunale lo ha deciso, infatti Uber Pop viene bloccata. Quello che ci siamo permessi di dire è: attenzione, non pensate che Uber, non Uber Pop, ma quindi la possibilità di utilizzare il servizio Uber possa essere fermato solo dagli scioperi, dai blocchi o dalle leggi, perché nessun processo di innovazione, quando è a vantaggio del cliente, si è mai fermato in questo modo in nessuna democrazia. Attenzione, allora un conto è chiedere massimo rispetto per regole uguali per tutti, quindi no alla concorrenza sleale, e fate bene. Altra cosa però è anche ragionare, riflettere con la massima onestà su un miglioramento del servizio che taxi nazionali possono offrire. Non parlo sempre solo di Milano o sempre solo delle grandi città, e quindi qualità del servizio, disponibilità. Facevo l'esempio delle carte di credito, vi assicuro che è imbarazzante arrivare a Fiumicino, al di là di come è messo l'aeroporto in questo periodo, ma che dovrebbe essere un aeroporto internazionale, il classico esempio in cui uno arriva e ha bisogno, magari non hai contanti, è uno straniero, vuole utilizzare la carta di credito per un percorso anche lungo, aspetti 10-15 taxi, lo dico per esperienza. La stessa cosa avviene anche alla stazione Termini. Allora poi attenzione, perché vanno bloccati, diciamo, i cinesi, chiamiamoli così, di casa nostra, ma poi non puoi bloccare i vantaggi per i clienti se non riesci tu ad ammodernarti anche come soluzioni tecnologiche. Poi la situazione del mondo dei taxi e dei radiotaxi è molto diversa nel paese, però attenzione, le battaglie solo di retroguardia, lo dico per voi, poi il consumatore in un mondo liberalizzato è libero di scegliere. Grazie Gianluca Comin, fondatore della società di consulenza Comin & Partners. Grazie e buonasera a tutti. Allora, molti scrivono invece di Cars, no? È un'altra cosa, però attenzione, BlaBlaCars, se ricordo bene, è un classico car sharing, cioè tu dividi un passaggio, devi andare in un posto, devi andare al mare, in montagna, metti a disposizione questa cosa, hai anche un contributo di viaggio e dividi un passaggio. Quello è un privato che deve andare in un luogo e semplicemente divide la spesa con qualcun altro, è il car sharing. Uber Pop invece significava che io mettevo a disposizione sull'app la mia macchina e dicevo: io oggi chi la vuole lo porto in giro per Milano, o porto in giro e faccio fare altri passaggi. È una cosa un po' diversa, senza nessuna garanzia, senza nessun costo. I vari messaggi minatori dei tassisti li rimando al mittente. Fatevi ogni tanto, cari tassisti, ogni tanto anche un esame di coscienza, perché su questo abbiamo difeso le regole per tutti. Poi però a me è successo recentemente di un taxi che si è perso nell'Intran milanese, non sapevo come arrivare all'Expo, ok? In uno dei numeri più famosi a Milano. Ne vogliamo parlare? Ma non è colpa mia, hanno scritto male i segnali, e allora sarà colpa mia. Dai, GR24. Gira il mondo, gira, e sempre più vorticosamente. Difficile capire tutto quello che accade, ma state tranquilli. A fine giornata vi racconto cos'è successo in Italia e all'estero, con i servizi della redazione e con gli ospiti in diretta. Effetto notte, le notizie in 60 minuti, dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 22, con Roberta Giordano. Focus Economia. E 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, adesso non è che possiamo fare la puntata ogni volta sui tassisti, non stiamo facendo populismo, abbiamo detto solo attenzione, Uber Pop è una cosa, era concorrenza sleale, lo abbiamo detto fin dall'inizio, Altra cosa è dire che il mondo dei taxi funziona perfettamente in tutta Italia e non ci sono, perché lì i tassisti si devono mettere d'accordo con i clienti, ok? Perché abbiamo metà messaggi dei tassisti che dicono, beh, a parte gli insulti, che diciamo cavolate, uso altri termini, vabbè. E poi ce ne sono un'altra metà che sono di clienti che lamentano invece alcune cose. Uno mi ha appena scritto per riuscire a pagare un taxi con la carta di credito, ne ho aspettati 6 adesso in centro a Milano. Altri giustamente fanno notare che i taxi hanno centraline con operatrici 24 ore non stop, app, pagamenti diversificati. Verissimo, e infatti quello si sta dicendo. E i due servizi possono anche coesistere a patto che le regole valgano per tutti. Poi, se vogliamo dire che il mondo del servizio taxi in Italia è esente da critiche, da pecche, allora i tassisti che scrivono dovrebbero ogni tanto provare a fare i clienti nelle varie città e vedere se c'è uno standard garantito, la qualità di alcuni servizi. Dai, per favore, anche perché chi vi parla per lavoro ne prende tantissimi di taxi, quindi a chi mi dice non sa di cosa stai parlando, ma guardi, forse non lo sa lei perché giustamente fa il tassista e conosce il suo taxi, però dai, no? Va bene, dai. Eccolo Enzo da Milano, ma a parte gli insulti può spiegarmi perché? Non so, chiedo. Va bene, dai, la borsa oggi più che positiva, Milano, attenzione, comunque io ve lo dico perché è una vecchia polemica, attenzione alle battaglie retroguardia, car to go, bla bla car, arriveranno sempre le app, allora o uno decide anche su cosa puntare, sul servizio, o se no non puoi fermare quelle che sono innovazioni, puoi chiedere che siano, che non ci sia concorrenza sleale, e bene avete fatto a chiederlo e il tribunale vi ha dato ragione nella vicenda Uber Pop, non nell'altra Uber che invece resta operativa. Più 2,50% Milano, più 2,40% Francoforte, più 1,13% Londra, più 1,75% Parigi, gli Stati Uniti sul Dow Jones più 1,40%, rimbalzo di tutti i titoli, devo dire la verità, con un particolare accenno sul lusso, Yux più 5,80%, Moncler più 4,20%, e ancora Ferragamo più 3,14%, Luxottica più 2,81%. Adesso arriviamo alla borsa, però visto che parliamo del lusso come uno dei temi di borsa di oggi, ascoltiamo cosa ha detto al microfono della nostra Valeria Grandi, Antonio Achille, che è partner e managing director di Boston Consulting Group, alla settima edizione in due giorni, oggi e domani, che si è tenuta la prima giornata oggi qui a Milano nella sede del Sole 24 Ore, dove tutti i principali marchi del lusso si sono confrontati sui temi dell'e-commerce, delle tecnologie digitali e anche del Made in Italy. O se no, visto che è già in collegamento il collega di Radio Corso 24 Ore, Ceo Condina. Ceo, dacci un primo commento, buonasera innanzitutto sul lusso, poi ascoltiamo sia Achille che il numero uno di Ferragamo, Michele Norsa. Ceo. Ciao, buonasera a tutti. Sì, sicuramente una giornata importante per il lusso, come dicevi tu. Infatti tra i migliori titoli vediamo le banche, ma si tratta prevalentemente di un rimbalzo visto che avevano perso ormai da 4 sedute consecutive, invece molto bene il lusso, Yux più 5,8%, Ferragamo più 3,1% e c'è anche Moncler più 4,1%, guardando fuori dall'Italia anche LVMH a Parigi ha recuperato oltre il 3%. Ancora per quello che riguarda invece Saipem, abbiamo Yux, abbiamo detto tutte le bene le banche oggi, UbiBank più 4,30%, Pop Milano più 3,80%, Pop Emilia Romagna più 3,5%, Eni più 3,5%, l'archiviamo col petrolio sopra i $60, immagino. Sì, assolutamente sì, poi c'è anche l'ipotesi, insomma, che si riesca a alleggerire la partecipazione in Saipem. Ecco, diciamo che... e veniamo a Saipem perché ce lo chiedono gli ascoltatori, qui è l'aumento di capitale che tiene banco più 2,70%. Sì, diciamo che ieri il titolo era andato molto male, un po' in altalena sostanzialmente, anche perché non c'è chiarezza su quella che sarà insomma la prospettiva, il futuro della società, anche perché probabilmente non è stato ancora definito. L'ipotesi più plausibile a questo momento sembra il fatto che il fondo strategico italiano, che è controllato da CDP, rilevi una quota importante di Saipem da Eni, di modo che Eni scenda tipo dal 41 al 20% e poi sia il fondo strategico che Eni sostengano, sottoscrivono pro quota un aumento di capitale. In questo modo comunque ne riuscirebbe ad allentare la presa da una società indebitata e comunque problematica, ed è anche questo il motivo per cui la stessa Eni guadagna in borsa. Ancora Telecom, il ragionamento su il cablaggio nel progetto di banda larga del governo, banda ultra larga del governo, il fatto che le canalette dell'Enel possano essere utilizzate per far passare i cavi, la dico così, è uno dei motivi forse un po' pretestuosi per cui Telecom guadagna il 3%, faccio notare che anche Enel guadagna il 2,12%. Sì, oggi hanno guadagnato un po' tutti, giustamente come dici tu, ha fatto più 2,5 l'indice, quindi sono prevalentemente, diciamo, come l'indice sono andate queste società. Comunque Enel garantisce, c'era un'intervista oggi sul Sole 24 Ore, un risparmio molto consistente per il cablaggio del paese, e in questo modo, diciamo, anche gli investimenti di Telecom potrebbero essere di gran lunga inferiori, magari destinati anche ad altri, diciamo, ad altri rami del business. Ancora oggi sulle banche Monte dei Paschi meno 0,71 e Cassa di Risparmio di Genova ha perso ancora oggi sulle risparmio, è arrivata a cedere anche il 3,88%. Sì, Monte dei Paschi è finita la negoziazione dei diritti sull'aumento di capitale, comunque resta ancora molto debole. Per quanto riguarda invece Banca Carige, sostanzialmente spicca che invece, scusa, è sotto aumento di capitale da oltre 800 milioni, spicca il meno 3% dei diritti sull'aumento, quindi sostanzialmente un aumento che sul mercato non decolla. Non decolla almeno per quanto riguarda le quotazioni, poi probabilmente verrà coperto dal punto di vista delle sottoscrizioni. E poi Mediaset, qui ci sono delle dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi che intravede a giugno un segno positivo nella raccolta pubblicitaria, prevede di chiudere il secondo trimestre meglio del primo, e poi ha annunciato che Mediaset lavora a un nuovo decoder che potrà ricevere digitale terrestre, banda larga e satellite, e sarà pronto a gennaio 2016, e un'offerta pay anche sul satellite che dovrebbe partire a febbraio-marzo. Sì, diciamo che qui gli operatori erano concentrati soprattutto sulle indicazioni per la raccolta pubblicitaria di maggio e di giugno. In giugno il management di Mediaset si aspetta un segno più, ha detto, importante, questo diciamo, ha lasciato intravedere una ripresa importante, fino adesso c'è stato un rimbalzino della pubblicità e quindi Mediaset è stata premiata in borsa. Allora, dicevamo del lusso e ascoltiamo a questo punto da un lato l'analisi sul livello del mercato del lusso, che comunque non è ancora tornato ai livelli pre-crisi, come ha ricordato Antonio Achille, appunto partner managing director di Boston Consulting Group, al microfono della nostra Valeria Grandi, e subito dopo anche il ruolo del Made in Italy, dove diciamo la produzione che sia al 100% italiana nel lusso è fondamentale, non è solo un vantaggio, è fondamentale. Come hanno ricordato, li ascolteremo anche lì in sequenza, Michele Norsa, numero uno, amministratore delegato del gruppo Ferragamo, e Antonio De Matteis, amministratore delegato del marchio Keaton. Il lusso continua a crescere, è un settore che ha dato nel passato enormi soddisfazioni. Il digitale è sicuramente il canale che offre tassi di crescita maggiori, sia in maniera, diciamo, di digitale completo, quindi transazioni che vengono completate sull'online, che rappresentano, a seconda dei marchi, il 7-10%, ma in maniera più ampia per il fatto che anche le transazioni che poi finiscono nel negozio spesso sono influenzate dal digitale. Noi stimiamo che circa un 60% delle vendite complessive abbiano almeno un punto di contatto col digitale, perché il consumatore si informa prima sul prodotto. Il mercato digitale, per quanto abbia tassi di crescita sorprendenti, stiamo parlando di 20-30%, anche di più, non è stato sufficiente per compensare il rallentamento di geografie come quella asiatica. Quindi il settore sta crescendo un 4%, se prendiamo il periodo 96-2001 cresceva il 9%. Diciamo che in questo momento è più facile di quanto fosse qualche anno fa sicuramente, con aumenti, diciamo, una maggiore inflazione in Europa, un euro che comunque era più elevato, diciamo, nel rapporto di cambio col dollaro, diventava diciamo difficile mantenere, soprattutto a livello di gross margin, diciamo la marginalità nella stessa maniera. Oggi abbiamo un grande vantaggio, non c'è scarsità di risorse, perché diciamo nel campo della pelletteria e delle calzature l'Italia ha un potenziale, e tutti i francesi e tutti i grandi marchi del mondo vengono in generale a produrre in Italia, quindi c'è disponibilità di risorse, c'è flessibilità, e se vogliamo anche col Jobs Act c'è una maggiore flessibilità nel mondo del lavoro, che anche questo aiuta sicuramente nei tempi, nei cicli, perché noi siamo delle aziende, comunque diciamo un business stagionale, quindi direi che le prospettive per restare a produrre qui sono enormemente migliorate. L'azienda nostra può solo produrre ed esclusivamente in Italia. Per fare queste qualità, per fare questi prodotti, c'è bisogno della manodopera italiana, manodopera che va riconosciuta e va pagata molto bene. Questo secondo me è il grosso segreto ed è il grosso motivo del nostro successo. Veramente abbiamo analizzato i bilanci quest'anno e vediamo che di pagare mediamente 10-12 mila euro in più a detto e moltiplicato 700 sono tanti soldi. Quindi non siete mai stati tentati mai di spostare assolutamente parte di produzione? No, non ci interessa. Beh, bene, e fortunati anche i dipendenti del gruppo Keaton, visto quello che ha appena ricordato l'amministratore delegato Antonio De Matteis. Unanime, devo dire, il giudizio, ma questo in parte già lo sapevamo. Quando tu vuoi fare produzione di alta gamma, alta qualità, mantieni la produzione, delle volte la riporti proprio in Italia, così come non è un mistero che il gruppo Louis Vuitton produca tantissimo nella zona del Brenta e nella zona anche del nord-est, perché la qualità la trova solo qui. Vado sul traffico, una risposta a chi mi scrive, vabbè, lasciamo stare i tassisti. Siamo in attesa dei giornalisti polacchi, ma cosa sta dicendo? Guardi che se c'è un settore dove la concorrenza è massima, i quotidiani sono stati massacrati dalle notizie che lei può leggere gratis su qualunque sito, da Google News in poi, dove quindi la stampa italiana si è mossa per dare un'informazione di diverso valore aggiunto, o se no viene massacrato dall'informazione gratis. In radio cosa vuole? Lei tocca con un dito l'autoradio e cambia stazione, ma voglio dire, io non è anche problema di Uber, noi abbiamo la concorrenza, abbiamo non so quanti canali radiofonici in concorrenza, lei può scegliere quello che vuole, quindi giornalista polacco venga pure, ma abbiamo già tanti giornalisti italiani, emittenti italiani che ci fanno giustamente concorrenza, quindi può dire quello che vuole, ma che il mondo delle radio e dei giornali non sia in concorrenza, bah, c'è anche la Free Press, c'è internet gratis, di più che volete, su. Traffico. Focus Economia. Valorizzare i tanti elementi, i tanti link culturali che ci uniscono. Certo, viviamo un quadro internazionale difficile, non soltanto per le questioni che non ci vedono uniti, ma anche per questioni che dovranno vederci sempre più dalla stessa parte, in uno scenario internazionale molto complicato, a partire dalla minaccia terroristica globale di cui nelle prossime ore parleremo anche in occasione di un bilaterale con il presidente Putin. Ma a tutte e a tutti voi vada il saluto dell'Italia, fiera e orgogliosa di aver costruito nell'Expo del 2015 un grande momento di riflessione internazionale, culturale, non soltanto commerciale ed economico. La Russia e l'Italia sono legate da legami molto stretti, la storia dei rapporti bilaterali, culturali, commerciali e politici conta più di 500 anni. L'Italia è un importantissimo partner in Europa, un investitore grande nell'economia russa. Collaboriamo sull'arena internazionale cercando di rispettare gli interessi di ambedue i paesi. Il nostro paese è uno dei primi, ha appoggiato la domanda italiana per la conduzione, per lo svolgimento dell'Expo 2015. L'Italia è un grandissimo partner internazionale in Europa della Russia, è il terzo posto per il volume del commercio, ma ultimamente in virtù di ragioni ben note l'interscambio si è ridotto nel 14 del 10% e nell'ultimo trimestre del 25%. Questo stato di cose naturalmente non ci soddisfa. Nel nostro paese funzionano, operano circa 400 aziende, le rappresentanze di 7 banche, gli investimenti 1,1 miliardo e in Italia i nostri investimenti 2,3 miliardi di euro. Allora, avete sentito nell'ordine l'intervento, un passaggio dell'intervento del Presidente del Consiglio Matteo Renzi e la traduzione dell'intervento di Vladimir Putin. Faccio notare che è vero che l'embargo ha colpito tutti, l'interscambio Russia-UE è crollato a 38 miliardi, meno 34%, però nel caso dell'Italia, noi essendo il terzo partner in Europa della Russia e il quarto a livello mondiale, abbiamo avuto un danno ulteriore, nel senso che abbiamo già avuto un calo di 1 miliardo e 200 milioni l'anno scorso. Si stima che se continuerà questo tipo di embargo e controembargo perderemo tra 2014 e 2015 3 miliardi di esportazioni. Nei primi due mesi di quest'anno il solo settore agroalimentare ha fatto meno 46%, e ancora le vendite complessive italiane in Russia sono calate nei primi due mesi del 37% a gennaio e del 28% a febbraio. Tessile abbigliamento meno 16, appunto, prodotti alimentari meno 38%. Dottor Luca Pierazzi, partner di Advisor, che fa consulenza finanziaria anche su questi temi. Buonasera. Pronto? Non sente? Non c'è? Allora nel frattempo rispondo ai tassisti, non so, c'è un problema di collegamento, di linea, che succede? Allora, fatemi dare una risposta, l'avrei voluto dare alla fine, ma intanto recupero il tempo che andiamo a perdere per ripristinare il collegamento. Allora, non è che però ogni volta che tocchiamo il tema delle licenze ai tassisti partono gli insulti. Abbiamo detto che ha fatto bene il tribunale a bloccare Uber Pop perché era concorrenza sleale. A chi mi scrive, vorrei vedere lei se avesse speso 150.000 euro per una licenza. Ha ragione, ma questo vale anche per altri settori. Anche quando io ho iniziato a fare questo lavoro, i giornalisti erano gli unici che avevano l'accesso alle notizie e avevano altri stipendi. Adesso hai freelance, siti di informazione dappertutto. Allora cosa dovremmo dire noi? Dove la concorrenza ce l'hai gratis su internet, sulle reti, su tutto. Penso che l'ultimo dei problemi per chi ha un computer sia accedere alle prime 10 notizie del giorno. Ti inventi qualcos'altro, cerchi di migliorare la qualità, il servizio, fai capire che un conto è leggere le notizie di Google News, un conto è leggere le notizie ragionate, selezionate, ma non è che si può dire semplicemente blocchiamo internet perché vogliamo che il giornalismo resti quello degli anni 80 e 90, anche con i privilegi e anche con l'esclusività che aveva quel mondo. È cambiato il mondo. Dopodiché, se per voi va tutto bene così, chi vi parla, ripeto, prenderà una trentina di taxi al mese e vi assicuro che si passa da servizi di grande eccellenza a servizi sotto la sufficienza per la qualità, per la pulizia, per l'esperienza e quant'altro, allora forse anche iniziare a lavorare su un valore aggiunto di più per alcuni tassisti non sarebbe male. Detto ciò, fate quello che volete. Poi però tanto Uber non la bloccate a botte di scioperi, così come le altre application che stanno arrivando e arriveranno. Fate bene a bloccare le parti illegali, terza volta che lo dico. Allora, è in collegamento l'ospite? Sì, lo è, e allora lo ringrazio perché vorrei ragionare con lui. Buonasera, quindi, ci sente? Pronto? Eccolo, perfetto. Abbiamo anche lei in collegamento, quindi Luca Pierazzi. Senta, ha ragione chi dice che Putin tenta di usare l'Italia per aggirare il blocco, oppure anche da quello che è successo al G7 il blocco ce lo teniamo e tutto il resto sono dichiarazioni di intenti? Ma mi sembra che la posizione dell'Italia sia abbastanza lineare e allineata al resto d'Europa, quindi non credo che Putin abbia questa intenzione. Ma il danno, cioè siamo noi che vediamo un danno eccessivo solo nei confronti dell'Italia, perché insomma, guardando le cifre, sì, la media, la Polonia è anche molto colpita. Paradossalmente forse sono meno colpiti gli Stati Uniti, e da questo punto di vista il timore che altri paesi si stiano proponendo al posto delle merci italiane, lo vedete anche voi o è solo anche qui un timore molto forte di chi è direttamente coinvolto? Ma è un timore fondato, nel senso che la competizione sulla maggior parte dei beni che possiamo esportare noi è forte, e quindi evidentemente ci sono altri paesi che possono prendere il posto dell'esportazione dell'Italia. Non stupisce certamente che gli Stati Uniti siano poco toccati, visto che il loro commercio con la Russia è minimo, quindi percentualmente è minimo, quindi i danni potenziali ne hanno veramente pochi. Sono un po' all'origine, direi, di tutta questa vicenda gli americani, ma sicuramente non sono quelli che pagano. La bolletta la paghiamo noi europei. La politica, gli indirizzi di politica internazionale che hanno portato a questo scontro l'hanno fatto in gran parte gli americani e in parte anche i tedeschi. E quindi secondo lei l'Europa dovrebbe, come chiedono alcuni anche ascoltatori, alzare di più la voce e dire agli Stati Uniti sì, attenzione, però qua non è che tu fai la politica estera a danno e con i costi nostri. E questo bisognava farlo prima, oggi siamo in una posizione in cui è difficile districarsi. Bisognava farlo prima di armare la piazza e far cadere un governo che era stato, un governo sicuramente non simpatico, ma che era stato democraticamente eletto, e questo ha creato un vulnus importante. Dopo si è messo in moto un meccanismo e fare il rewind è piuttosto difficile. A questo punto siamo in ballo. Bisognava non entrare in questo ballo, bisognava evitare di mettere in condizioni una piazza di ribaltare un governo democraticamente eletto, aspettare nuove elezioni affinché ci fosse l'elettorato che si esprimesse in maniera libera e sostituisse quel governo, e allora oggi saremmo in una posizione diversa. L'errore è stato allora, oggi uscirne non è facile. Grazie anche a lei. Ancora che tassisti, io sapevo che parlare di Uber portava questo. Beh, lei non guadagna certo come un tassista. Senta, vada a vedere gli stipendi dei giornalisti, li confrontiamo con quelli dei tassisti, tra l'altro con tutte trattenute alla fonte, visto che me le chiedete. Non so, andando a vedere quelle che sono le dichiarazioni redditi dei tassisti, se non ci sia un po' di evasione, non in tutti ma in alcuni tassisti. Io non guadagnerò certo come un tassista, ma è certo, questo non lo so, ma è certo che i tassisti guadagnano anche grazie a me. Ci sentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.